Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, ciao! Buonasera, scusate il ritardo. Come al solito, buonasera, perché tanto ormai iniziamo sempre in ritardo. Presentiamoci, abbiamo nuove persone ai nostri microfoni, nuove ma in realtà già sentite almeno ogni volta che riaccedete alla nostra trasmissione. Perché esatto. Con noi qui in studio abbiamo... Eccomi qua, io sono Yaya e come appunto ha detto la nostra compagna Palù, sì, mi avete già sentito nella sigla, però insomma non ci sono mai stata durante la trasmissione, quindi eccomi qua. È lei che ha creato il nostro jingle. È come se avessimo un ospite speciale anche oggi. Sì, praticamente sì. E si ribaltano i ruoli, perché Palù finalmente è in studio, mentre Addu è in differita. E davvero, poi abbiamo la nostra... Zazzi! Eccola! Ciao! Vabbè, dai Addu, hai avuto tante opportunità per venire qui stavolta. Sì, tocca a me. Ma da dove trasmettiamo noi? Chi ce lo dice? Ce lo dice... Zazzi, da dove trasmettiamo? Ecco. L'ho colta impreparata. Allora, trasmettiamo dalla regia della polveriera, mm-hmm. E ringraziamo di questo spazio. Esatto. E grazie. Ringraziamo anche di tutto l'aiuto ricevuto per poter, diciamo, trasmettere oggi. Esatto, qua. Che è stato essenziale. E inoltre, vabbè, ovviamente ricordiamo che quindi stiamo trasmettendo su Radio Wombat, mm-hmm. Siamo Nervature, ci trovate sul sito di radiowombat.net, se mm-hmm. volete seguire la diretta bisogna andate sul bottone giallo. Esatto. E lì sotto trovate anche il pad per la esatto, diretta. Che ripetiamo, il pad si può semplicemente scrivere, non dovete inviare niente, basta scrivere, noi... troviamo quello che scrivete e se ci volete fare domande noi le leggiamo e vi rispondiamo, ok? Ma oggi che giorno è? Oggi è l'8 marzo. E come mai l'8 marzo è così importante? Perché è la festa della donna. La giornata della donna. La giornata internazionale della donna. Quindi, perché noi abbiamo deciso di, non so se ci avete fatto caso, ma oggi non è solo l'8 marzo, oggi è martedì. Quindi è, diciamo, una novità per noi di Nervature, visto che noi di Nervature abbiamo sempre trasmesso di lunedì. Quindi, come vi abbiamo già detto nella scorsa puntata, abbiamo cambiato il nostro orario, che presumibilmente sarà sempre di martedì, nella fascia oraria dalle 8 alle 10. No, sarà no, questa? No. Vabbè, niente, ho scazzato così, che si dice. Ma siamo? Dalle? 9. Ok. Alle? 10:30. Ottimo. Ma senti un po'. No, sì, in realtà diciamo che potremmo forse dire 9:30, però sempre più là, fiduciose, sempre magari... più là. No, va bene, va bene. Certo, mi sono presa questa briga di ridire gli orari. La persona più ritardataria del gruppo, ovvio. Per questo siamo in ritardo oggi. Esatto. L'unica volta che non è colpa mia, me la danno lo stesso. Vabbè, dai, me la merito. E no, comunque, sarà sempre di martedì, come già detto da Zazì. Orario variabile, però dalle 9:30 alle 9 o le 10:30, insomma. Se ci seguite lo scoprirete, sempre connessi su Radio Wombat lo saprete. Allora, dicevamo, oggi è l'8 marzo, giornata internazionale della donna, e quindi noi decidiamo di fare una puntata a tema, sia a livello musicale che a livello di argomento. Quale sarà l'argomento di stasera? Vai, vai. Stasera parleremo di paesaggiste, quindi solamente di donne che appunto si occupano della progettazione di spazi verdi, quindi di spazi tipo giardini privati o giardini pubblici, terrazzi, parchi, insomma, vari tipi di spazi verdi, però appunto ci concentreremo solo su paesaggiste. Esatto. E, appunto, chi sono le paesaggiste? Sì, faremo un excursus nel temporale delle paesaggiste che si sono susseguite, scusatemi, nel corso della storia. E per quanto riguarda a livello, diciamo, musicale, trasmetteremo soltanto artiste donne. Artiste magari un po' particolari, forse saranno un po' sconosciute. Sì, alcune. Sì, esatto. Non so se vi siete connessi un pochino prima della nostra sigla, ma abbiamo messo già una canzone. E quella è molto interessante perché... prima, tipo 25 minuti prima. Sì, vabbè. Quello che sarebbe stato l'inizio effettivo, esatto, della nostra... l'inizio effettivo, esatto, della nostra puntata. Vabbè, descrive, diciamo, tutte le caratteristiche che una donna può avere, che siano esse femminili e mascolini. La donna può essere tutto. È questo il messaggio che si vuole dare. Anche con il nostro tema, che la donna può essere paesaggista in un mondo che... ovviamente anche questo è stato un po' dominato dagli uomini, e quindi noi diciamo buttiamo molto l'occhio sulle paesaggiste donne. Sentite, vogliamo iniziare subito o dare un piccolo stacco musicale? Ma io metterei anche una musichettina. Sì, dai, vi diamo un assaggio. Okay. Possiamo rimettere la canzone di prima? Secondo me... Vai, caccia. Potrebbe essere una musica un po' più tranquilla, lenta. Vai. E, spara. La mettete voi, me la presento io, va bene? Vai. Vai. Quindi abbiamo Eye Jama di Mamani Keita. Ok. Ma aspetta, abbiamo piccoli problemi tecnici. Sì. Allora, ripetimi un po'. Ah, mamma mia, siamo proprio raccattate, questa... ragazze, eh? Cioè, non c'è che dire. No, ma tutto bene. Dai, ma ce la facciamo. Ok, ripeti, Eye Jama? Bejama. Sì, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Vai. Ok, un secondo. Raccattatissime stasera. Vabbè, dai. Jama ye ko kelete hebana ne go parola jama ye ko kelete hebana ehe jama ye ko kelete hebana ne go parola jama ye ko kelete hebana Jama ye ko kelete bana, konyo yoro taka la fini fe ye ko kelete hebana, demudi yoro la sanu fe ye ko kelete hebana, bulokuli yoro la fini fe ye ko kelete hebana, jama duni yoro la wari fe ye ko kelete hebana. Thank you. ko ali dubundi duje ye ko kelete hebana Sake un niño conche ye ko kele tehebana Sigi nyogo ma un niño conche ye ko kele tehebana Sima muso ma un niño conche ye ko kele tehebana Ehiye jama ye ko kele tehebana Nego barola jama ye ko kele tehebana Oteba, ye ko kele tehebana. Oteba, oteba, ye ko kele tehebana. Sina mahube, sina ya kele mina. Sina mahuga, sina ya kele nima. Oteba, oteba, sina ya kele tehebana. Oteba fareña que le tejebana Terima ria lelina Siñona siñongo Oteba oteba sigipo que le tejebana Vabbè, se sentite cose strane diteci. Esatto. Sì, sai, almeno vediamo chi interagisce. Lo facciamo apposta per vedere se siete attenti. Mamma mia. Vabbè, dai, si sta. Su! Partiamo con i nostri argomenti. Sì. Abbiamo detto che affronteremo le paesaggiste. Le paesaggiste nel tempo. Quindi iniziamo da Gertrude Jekyll. Spero che la pronuncia sia giusta, perché io sono una capra nella pronuncia, soprattutto in quella in inglese, che è vissuta dal 1843 al 1932. Questa paesaggista nasce nel Regno Unito in piena era vittoriana. Noi sappiamo che l'era vittoriana è caratterizzata da una forte crescita industriale e urbana, dovuto anche dal sistema capitalistico industriale. E questo porta a un'espansione del territorio urbano e questo tessuto urbano diciamo che si può dire di due tipi. Il tessuto urbano esistente fa, diciamo, una ulteriore estensione molto caotica, mentre il tessuto urbano nuovo che si viene a creare con questa, diciamo, nuova, con questa rivoluzione industriale che porta tanti soldi, porta tanto frutto, il nuovo tessuto urbano è privo di organizzazione spaziale. Quindi noi ci dobbiamo immaginare Londra come una città caotica, proprio a livello di organizzazione della città, come se non ci fosse appunto spazio necessario per il verde. È un'espansione completamente forsennata che però trova una soluzione pian piano, ovviamente, nei parchi pubblici, perché appunto c'è comunque il bisogno di avere degli spazi verdi da vivere. Questi parchi pubblici vengono costruiti prima proprio nel centro di Londra e si identificano con il St. James Park e il Regent's Park. E questi stupiscono della mia pronuncia inglese, è incredibile, anch'io mi stupisco. e poi si sviluppano in, in Nord America. Perché? Perché il nostro amico paesaggista uomo, l'unico spero che verrà citato oggi in questa puntata, Olmsted, viene a guardare i parchi in Regno Unito per, diciamo, trarne ispirazione, per studiarli. Questo ci fa capire l'importanza che avevano questi parchi nuovi, appena costruiti nel Regno Unito. Bene, quindi abbiamo detto che il tessuto urbano è cambiato, ma cambia anche la campagna inglese. Ma perché? La campagna inglese cambia perché ovviamente con questo espandersi della città, dell'industria, delle fabbriche e tutto quanto, si hanno bisogno di ferrovie, di canali per navigabili per navi importanti che portano rifornimenti, carbone, tutto quanto, perché ovviamente ci ricordiamo che siamo nell'era del treno a vapore, tutto quanto, eh? E cambia anche perché questa città diventa soffocante. Soffocante perché appunto ci sono sempre più infrastrutture che non permettono questa vita, come se la borghesia del tempo volesse sfuggire a tutto questo tran tran, a tutto questo essere caotico della città. Non solo, diciamo, perché la borghesia si vuole ricollegare alla natura, no, ma che è più una cosa di status, symbol, nel senso che la borghesia è proprio quella che si può permettere di fare le vacanze in campagna e quindi il tessuto rurale cambia insieme a quello, al tessuto urbano. Quindi diciamo, questa è l'era in cui vive, in cui nasce, in cui sviluppa la nostra Gertrude Jekyll. Allora, la Jekyll è, diciamo, molto influenzata, è stata molto influenzata da un libro chiamato The Wild Garden di Robinson, che propone di incorporare specie resistenti appartenenti alla flora britannica e specie esotiche. Diciamo che quindi questo ci fa capire che il wild garden, ovvero il giardino selvaggio, in realtà non è selvaggio, non significa non curato, non significa non progettato. Il giardino selvaggio ha sempre un progetto dietro importante che deve essere rispettato. E Jekyll si impegna a creare questi spazi aperti, sia diciamo privati che pubblici, che influenzano l'essere umano. Ma come? Innanzitutto crea questi grandi prati contornati dai cosiddetti hardy flowers borders e arbusti sempreverdi, che danno l'accesso a piccoli boschi. Il tema del bosco diventa importante, selvaggio, della selva, ci si riferisce sempre a quello, che però, ripetiamo, non è mancanza di cura. È un cercare un qualcosa di appartato, un qualcosa di buio, un qualcosa che ovviamente rimanda al romanticismo. E diciamo che la Jekyll non fa una netta divisione tra il piano vegetale e il piano minerale. C'è sempre questo connubio. Diciamo che oltre che connubio, si ha anche un contrasto, perché la Jekyll è una donna di grandi contrasti, ma anche di grandi armonie. Quindi lei cerca di armonizzare elementi opposti. Un grande esempio, probabilmente la Jekyll è conosciuta per l'utilizzo che lei faceva del colore. Diciamo che lei associava questi, faceva degli accostamenti molto forti dei colori. Lei ha fatto tanti studi sul colore. Perché? Perché aveva l'obiettivo della complementarietà dei colori, che era raggiunto con delle diverse gradazioni. Ad esempio, associava il blu con il diciamo, partiva dal blu, dal grigio pallido, progredendo verso il rosa, il giallo, per poi arrivare a un rosso fuoco. Diciamo che dava grande importanza alla osservazione diretta, che sembra un po' un ossimoro, come già detto, la Jekyll è una donna di forti contrasti, perché dava molta importanza all'osservazione, benché lei avesse gravi problemi di vista. E, forse diciamo, proprio per quello. Sì, infatti, magari, brava, magari proprio per quello, perché, diciamo, avendo problemi di forte miopia, probabilmente voleva vedere l'impatto, sebbene non ci vedesse. Quindi era, diciamo, faceva questi accostamenti molto forti. E forse perché, siccome vedeva sfocato, vedeva benissimo tutte le sfumature. Esatto, brava, bravissima. No, no, no, ma guarda, io te lo confermo, io sono molto miope e quando mi levo gli occhiali vedo solo i colori. E mi sa che anche la Jekyll ha ragionato in questa maniera. Bene, diciamo che se la Jekyll è molto importante, però non è l'unica, quindi diciamo, stringiamo. Quindi ricordarsi la Jekyll proprio per questa importanza del colore e anche di questi creare questi spazi aperti, selvaggi, ma comunque progettati. Beh, anche oggi comunque abbiamo imparato, certo, come ci sia, brava, il giardino, brava, appunto formale, quindi quello un po' magari più quello che si viene detto all'italiana. Sì. Anche se non è sempre giusto, diciamo, perché c'era già da prima, e quello che viene detto appunto selvatico, e vabbè, ovviamente essendo, sì, qua a Firenze si può citare la Selva di Dante. Sì, esatto. E quindi questi posti comunque dove si cerca una natura incontaminata, anche se, come hai detto te, in realtà è progettata, però si cerca di mantenere alcuni equilibri e dove si vadano anche a ricreare habitat, diciamo, dove poi possiamo trovare animali selvatici, sì, e altri, esatto, diciamo, specie, sì, effettivamente che si trovano nel bosco. Sì, ecco, la cosa che dobbiamo precisare è che non vuol dire che la Jekyll ha fatto beh, ci butto tre piante e poi tutto naturale, tutto devolve come deve devolvere. No, assolutamente no. Come ha già detto Zazì, in un giardino c'è sempre la componente formale, diciamo, quella più razionale, quella più pulita, ma c'è anche questa componente selvaggia, naturale, diciamo lasciata, sembra che sia lasciata alla propria evoluzione, che però in realtà è comunque gestito, ecco. E direi che la Jekyll si può dire conclusa, perché... È conclusa? Sì, diciamo conclusa. Che è conclusa, perché se no non si finisce più, se no si parlerebbe sempre della Jekyll e tutto quanto. Quindi volendo possiamo andare pure anche avanti. Bene. Dai, vogliamo andare con... Direi che comunque è un ottimo inizio. Sì, dai. Nel senso che, beh, ovviamente non a caso l'abbiamo fatto in modo tecnologico, mm-hmm, però appunto si apre un po' a quello che è la progettazione, secondo me, in base anche a come hai fatto te, Paolo, l'introduzione. Nel senso che appunto la progettazione è... far qualcosa di uno spazio, però appunto non lasciare così abbandonato a se stesso, anche se la natura da se stessa fa cose meravigliose, per l'amor sì, di certo, Dio. Quello. Però comunque la progettazione invece ci mette le mani, ma ci può mettere le mani in tanti modi diversi, uno tra cui appunto, come dicevi, fare dei aiuto a fare dei giardini, mm-hmm, in stile più naturale. E che è una cosa in realtà che anche oggi la si fa, ma anche oggi sembra quasi una novità ancora. Mm. Cioè, quindi pensiamo quanto era all'avanguardia Jekyll. Sì, tantissimo, per la sua epoca, sì. E dai, per finire la Jekyll suggeriamo dei libri da lei scritti. Ulala! Sì, siamo così addirittura preparati. Suggeriamo Wood and Garden, del 1899, oppure Home and Garden del 1900, e il più famoso e soprattutto il più importante, Color in the Flower Garden del 1908 e poi ripubblicato nel 1914. direi che possiamo mettere uno spezzone musicale. Che ne pensate? Sì, dai. Sì, direi. Vai. Cosa mettiamo? Mettiamo Lura? Vai, attacco. Buona. Ci sentite? Hey, siamo tornate? Sì, certo che ci sentiamo. Siamo tornate. Ci sentite? Siamo accorti di gravi problemi tecnici. Ma sì, ma cioè, assurdo. Cioè, vabbè, questa diretta è stata un po' così, sentirete la diretta nella registrazione. Stasera va così, stasera piccoli problemi tecnici. Ci piace la polveriera, però diciamo che... Forse è meglio imparare un po' a fare tante cose. Come, Adu? No, niente. Ah, okay. Perché oltre a questo ci sono anche dei ritorni nei nostri microfoni, nelle nostre cuffie. È un po' psichedelica, ragazzi. Sì, dai, ci si diverte. Figuraci, dai, proprio per il giorno in cui volevamo essere le più brave di tutte. No. La giornata è Vabbè, sì, vedi che però dai, è una buona scusa, mi piace. Sì, infatti. Esatto, possiamo... No, dai. Ci dispiaciamo veramente tanto. No, davvero. Sì. Poi il bello è che ce ne siamo accorte... Nel mentre. Vabbè. Ci sentite ora? Scrivetecelo sul palt. Ricordiamo ora sì, dicono. Che siamo su radiowombat.net. Per ascoltare la nostra deliziosa diretta bisogna premere sul bottone giallo, altrimenti ascoltateci per favore in replica. Sì, che forse è meglio. Sì, se vi siete persi qualcosa. Sì, forse più di qualcosa. Mi sa che... perché ci sta. Sì, no, ma mi sa che siamo noi che ci siamo persi nella vita proprio. Vabbè, dai, andiamo avanti. Comunque dal pad ci stanno tenendo aggiornate. Eh? Sì, infatti grazie mille. Bello, grazie. Ci seguono. Ah, sono entusiasta. Ti mandano i cuoricini. Ti mandano pure un cuore. Che carini. Grazie mille. Chiunque tu sia. Tanti cuori anche a te. Dai. Deliziamo questo nostro ascoltatore con un'altra paesaggista. Sì, passiamo a Elena Balsari Berrone, che è, diciamo, vissuta tra il 1921 e il 2018 e E niente, insomma, Elena... Cioè, ma quasi centenaria sta donna. Davvero, infatti. Perché la natura fa bene. Esatto, fa bene. Per quello l'abbiamo scelta, rimaniamo giovani. Più a lungo, la natura fa bene, le paesaggiste arrivano a 100 anni. Tiè, ce la siamo tirata. Grazie. E appunto Elena Balzari Berrone veniva chiamata da, diciamo, le persone più care o comunque dai colleghi anche Nena, quindi... Ok, ci siamo. Vai, questa breve pausa caffè da 0-2 secondi. Aspetta. No, stavamo... ci siamo? Zii? sento, mi sa un po' la replica in sottofondo. Diteci se la sentite anche voi. Qualcuno ci dica qualcosa, no, perché non qua non va. Ah no, scusate, aspetta. Incredibile, stasera. Ok, qualcuno ci dica qualcosa. Se ci siamo, non ci siamo. Ci sentite? Adduta, ci sei, ci senti? Per ora stiamo andando, sì. Okay, vai, grazie. Perfetto, senti. Quindi, abbiamo perso anche il nostro unico ascoltatore. Ripartiamo da Nena, quindi ricordiamo che il suo vero nome in realtà è Elena Balzari Berrone, che appunto, stavamo dicendo, si è laureata nel 1946 in architettura a Milano. Che riassunto convintissimo. Sì, vedetissimo. sì, scusate. E appunto dopo un anno dalla sua laurea viene coinvolta nel progetto delle aree verdi per la Mostra Internazionale di Architettura. E diciamo che dopo questa esperienza le viene affidata la sistemazione delle aree verdi del quartiere QT8 a Milano, appunto, e da qui, diciamo appunto, da questo approccio all'architettura del paesaggio si innamora e inizia a dedicarsi esclusivamente alla progettazione del paesaggio e da qui appunto qui inizia fino ai successivi 70 anni appunto di carriera. E appunto, diciamo che questa sensibilità alla natura e questa, diciamo, voglia di continuare sotto questo punto di vista gli viene passata anche da sua madre, che appunto era appassionata di piante e fiori. E quindi nulla, lei parte e la sua, diciamo, la sua ricerca stilistica nei primi anni di attività si incentra soprattutto nel trovare i materiali più adatti alla realizzazione delle sue idee e infatti diciamo che è la prima a diciamo pensare, diciamo, a ridurre l'impermeabilizzazione del suolo con l'uso degli autobloccanti. Senti. Questo è, cioè, questo è molto abbastanza innovativo, no, diciamo. Sì, infatti, quello è sicuro. Molto innovativo. I temi, esatto, di adesso sull'impermeabilizzazione. Sì, che poi è un problema che c'è sempre stato e praticamente sempre ci sarà. Sì, prima veniva ignorato, diciamo ora si sta cercando partendo proprio da lei. Esatto. Forse. Esatto, e quindi niente, diciamo che in generale lei, quello che diciamo ci affascina delle sue opere è il dialogo tra gli spazi aperti e l'architettura, perché appunto, come abbiamo detto, si è laureata in architettura e quindi ha questo legame con appunto quest'ultima, e quindi diciamo l'elemento vegetale gioca un ruolo diciamo non secondario, però deve cercare di esaltare l'elemento architettonico. E un altro tratto caratteristico, diciamo, delle sue opere è la costante ricerca quasi ossessiva dell'armonia, e infatti questo si traduce in qualche modo in interventi quasi essenziali, quasi a riportare, diciamo, a restituire, diciamo, il paesaggio a, diciamo, a una semplicità, un'eleganza, però allo stesso tempo, diciamo, anche familiare, quindi non stravolgerlo, ma riportarlo a quello che effettivamente era. E, c'è un ritorno, ragazzi. Sì. E poi il bello è che abbiamo non il ritorno di noi in cuffia, ma il ritorno della replica in cuffia, ancora meglio. Esatto. Vabbè che siamo multitasking, le donne lo sono, però non così tanto. Ci sono i suggerimenti al contrario. Esatto. E, E appunto, come abbiamo detto, cioè lei è, diciamo, è molto attaccata a quello che ha studiato, quindi architettura o comunque a qualcosa di lineare o comunque alle proporzioni, anche per l'esperienza del padre che è uno scultore, quindi diciamo che viene molto influenzata dai genitori, da una parte dalla madre per quanto riguarda le piante, quindi il mondo vegetale, e dall'altra parte il padre. E lei fonde queste due cose e appunto dà vita alle sue opere. Bene, questa era Elena Balsari Verrone, la nostra nena. Speriamo di avervi incuriosito per andare a vederle, insomma, anche queste opere in giro per l'Italia, perché lei è appunto italiana. E... Dai, non l'avevo mica capito. No, era giusto per sottolinearlo, perché insomma anche qui qualcuno c'è. Esatto, e che non è molto scontato. No, è vero, è vero. No, se ci pensiamo, i più grandi paesaggisti e paesaggiste sono sempre all'estero. Quindi avere una paesaggista nostrana così famosa e così importante, diciamo, non è da sottovalutare. No, infatti. Bene, possiamo mettere un altro bel... C'era le music. Dai. Musicchina, musica. Allora, io ho scelto... Scateniamoci. Questa canzone. Qua si balla. Di Nathalie Nathiembe, chiamata Chilos. Chilos. Yeah. Silence, silence. Dans silence, poigne à mon cœur comme un bonheur. Silence, silence. Dans sommeil, les traces et bouche à bien mon cœur. Ou silence, silence. Sois au bon Dieu ou mon Dieu un instant. Grand matin, soleil caresse dans le creux ton flanc. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air, l'arrivée au dépôt dans l'âme des taquets. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, malisé, ralagoué sur le côté. Thank you. che bella questa canzone. Ti è piaciuta, Yaya? Sì, molto, molto. Ti è piaciuta come post canzone della tua presentazione? Sì, sì. Nenna sarebbe stata contenta. Sì, abbiamo deciso di mettere tutte artiste molto poco conosciute, molto poco, ottimo, veramente ottimo. Molto poco. Molto poco conosciute, oggi anche per dare appunto rilevanza, com'è l'obiettivo di questa giornata, dare rilevanza alla voce delle donne, soprattutto quelle meno ascoltate, non solo a livello politico, a livello sociale, ma anche a livello artistico, dai. Bello, proseguiamo. Bello. Sì. Con le nostre paesaggiste e passiamo la parola ad Addu. Ci sono, eccomi. Io proverò un po' a parlarvi di Diana Balmori, che nonostante il nome sembra italiana ma non lo è, è spagnola originariamente. Però cioè, se ci vogliamo sentire compiaciute possiamo far finta sia italiana e va bene lo stesso. Si chiama imbrogliare. No, appunto, è spagnola, nata a, io vi giuro non so come si pronuncia, Gijón, forse, o Gijón, o Gijón, non lo so. Chi è sul pad e sa qualcosa di spagnolo, ci scriva la pronuncia. Ci scriva la pronuncia. Dai, come su un dizionario. È una bella sfida, con l'alfabeto fonetico. Esatto. Che tutti conosco. Sì, esatto. Sicuro, secondo me il pad sarà vuoto completamente. Ma noi diamo stimoli, poi... poi li coglie, li coglie. Va bene. Mi piace, ok. Quindi appunto, Diana Balmori è nata in Spagna nel 1932, però muore nel 2016, quindi un po' prima invece della progettista presentata a Yaya, però è nata dopo, quindi la posso dire. E la sua infanzia è già in realtà abbastanza piena in un certo senso, perché si trasferisce presto con la famiglia in Inghilterra e poi successivamente, un po' più dopo però, va a finire in Argentina. Quindi ha tante influenze, come si sa, viaggiare a giro fa sempre bene, fa sempre crescere, perché si vedono cose, si vedono ambienti, persone, stati, società diverse, quindi è sempre una crescita. In più, non bastava questo, ma i suoi genitori hanno cercato sempre di un po' stimolarla verso materie e ambiti artistici. In particolare ha provato la danza, ha provato il pianoforte, altri tipi di arte, e come si sa anche l'arte appunto apre molto la mente. È proprio creazione, quindi si lega direttamente a quello che è la progettazione, anche se la progettazione non è solo arte, è anche un rispondere alle necessità di un luogo, di un committente, ovvero quello che ti chiede o per favore fammi questo progetto, no? È anche quindi risolvere tutta una serie magari di problematiche funzionali che ci sono in un certo luogo, però l'arte serve, perché magari potremmo dire la ciliegina sulla torta, no? Un buon progetto è un progetto che funziona bene, però se in più è anche bello magari fa molto piacere. Ok, quindi questa era un po' l'introduzione. Quindi, oltre a questi stimoli che già le vengono dalla storia della sua famiglia, inoltre lei studia architettura quando è in Argentina e continua gli studi in realtà per molto tempo nella sua vita, e nel frattempo, grazie ai suoi studi, incontra Cesar Telli, che diventerà suo marito e diventerà tra l'altro anche lui architetto. E avrà un suo proprio studio di architettura, Cesar Telli Associates. Quindi già da sposi migrano invece negli Stati Uniti, dove si vede che rimarranno molto ancorati, soprattutto a New York. Quindi, come dicevo, invece Balmori continua a studiare, quindi dopo aver fatto gli studi più, se vogliamo, generici di architettura, si interessa invece di più alla storia, alla urban history, e urban design, quindi storia dello sviluppo urbano e il design urbano, quindi anche arredo urbano. E appunto si vede che c'ha diversi, è una personalità che ha diversi interessi, cioè studia varie cose chiaramente collegate, però diverse, che però riesce poi infine, come cercherò di raccontarvi a parole, riesce poi a collegare insieme i suoi progetti. A quanto pare era una allieva brillante, perché diventa professoressa in queste università molto famose degli Stati Uniti e inizia nel frattempo anche a studiare anche architettura del paesaggio, quindi si interessa all'ambito quello che è più della natura, delle piante, perché insomma tra architetto e architettura del paesaggio a volte c'è un oceano nel mezzo. Volte c'è sempre un oceano, dai. Esatto, non volevo dirlo, però dai, si può azzardare, si può dire. Ok, lo diciamo. Però comunque, pur sapendo questa cosa, leggendomi la sua biografia mi sono anche stupita, perché lei inizialmente ha iniziato a lavorare all'interno del gruppo di architetti di suo marito, che appunto era un gruppo proprio di architettura urbana anche. Quindi come primo approccio alla progettazione ha questo, a livello lavorativo soprattutto, e poi dopo però si distacca e farà invece il Balmori Associates. Grazie probabilmente a tutti questi studi, a tutti questi spostamenti nei vari paesi, in vari paesi del mondo, insomma diventa un personaggio importante e infatti viene riconosciuto più volte, prende parte a dei ruoli politici o pseudopolitici, diciamo. Per esempio è un membro dell'Allison Development Group dell'Harvard University, che è un'università molto grossa, molto importante, e niente, questo gruppo è quello che si occupava dello sviluppo dell'università, quindi di creare nuove opportunità, nuovi spazi, nuovi spazi funzionali a appunto ampliare in tutti i sensi l'università, quindi a creare nuove relazioni, a farsi conoscere e tutta una serie di cose, insomma, quindi già solo questo. Beh, sì, comunque direi che è un personaggio molto attivo, no? Come lo racconti. Esatto, sì. Esatto. Poi, ma non è mia finita prima, ha fatto una marea di cose. È stata membro del board of the Van Allen Institute, che è un gruppo che si occupava, o si occupa, in realtà forse esiste ancora, non saprei, della progettazione della città di New York. Quindi è un po' un gruppo generale che decide, sì, qui potremmo fare, un po' come potrebbe essere, diciamo, una sorta di piano paesaggistico. Non è una roba statale, però appunto è un gruppo comunque di architetti e paesaggisti che appunto mettendosi insieme magari riescono a fare qualcosa di più sensato a livello di una città intera, tra l'altro come New York. Poi, altra cosa che mi ha divertito un sacco quando l'ho letta, non me lo sarei aspettato, è stata parte del gruppo che ha aiutato, diciamo, il design, la pianificazione della Casa Bianca. Dammela! Ok, top, grande. Fantastico. E poi, vabbè, fa parte dell'American Society of Landscape Architects, che è un'organizzazione estremamente importante degli architetti americani, però ne fanno parte tantissimi, non è certo la unica. Quindi ha, diciamo, tutto un bagaglio suo, culturale e sociale anche, piuttosto importante, e questo le permetterà infatti di fare una marea di progetti, tra l'altro alcuni molto grossi, master proprio, e altri invece piuttosto piccoli. Alcuni tra l'altro sono stati piccoli ma molto importanti, altri piccoli e molto meno importanti, quindi ha fatto tante cose diverse. Ha scritto tra l'altro anche qualche libro e articolo pubblicato su delle riviste, Il più famoso, il libro, scusate, più famoso è, oddio, non so se si può proprio parlare di libro, è più un fascicolo, penso. Comunque, A Landscape Manifesto, il manifesto del paesaggio, che sono una serie di piccole frasi, cioè concetti più che altro, che sono appunto venuti fuori da lei stessa, dalla sua mente, un po' la sua interpretazione del paesaggio, diciamo. E è interessante, devo dire. E per esempio, leggendolo, sfogliandolo un attimo, ho riportato due frasi. E una è, quindi proprio frasi del manifesto scritte da lei. Gli architetti possono aiutare a stabilire una relazione più complessa e completa tra la città, gli umani e la natura. Quindi, piccolissima frase, molto generica, forse si direbbe che la potrebbe scrivere chiunque, può darsi, però già da qui comunque si vede che ci sono questi tre elementi molto importanti per lei: città, umani e natura, che lei in continuazione cita e li cita insieme proprio perché, vabbè, poi lo vediamo dopo, comunque li vuole connettere il più possibile. E si vede anche che ha diciamo, abbastanza fiducia nella professione dell'architetto, nella professione del progettista, perché cioè, si capisce molto bene, secondo me, questa cosa, sia per la magnificenza, diciamo, dei suoi progetti, sia per gli articoli, appunto, i concetti, insomma, del Landscape Manifesto. Ha molta fiducia che gli architetti, i progettisti possano fare qualcosa per aiutare a portare la natura in mezzo agli umani, cosa che purtroppo appunto non succede molto, no. Non più. E poi un'altra frase invece che mi piaceva, i cambiamenti avvengono davanti ai nostri occhi, anche questa è fortissima, però è interessante perché, ah sì, scusate, poi continuava, i landscape artists e artists sì, un attimo, devono dar loro un nome e renderli visibili ai cambiamenti. E, è interessante perché ora probabilmente era proprio sveglia lei, non so bene come, però riesce, si vede anche dai suoi progetti e dai suoi lavori, che riesce molto bene a capire che cos'è un ecosistema. Ora, molto bene per quanto si può, perché un ecosistema è un insieme di relazioni fra organismi diversi che lo abitano e clima, ambiente climatico, fattori quindi fisici, quindi è un macello, insomma, è un casino da capire chiaramente, però vabbè, lei ci si avvicina abbastanza, e quindi questo fatto dei cambiamenti che lei appunto vuole mettere in risalto, il fatto che ci sono i cambiamenti nella natura e ci sono continui oltretutto, e, è molto importante, penso, perché quello che lei cerca di fare è cercare di rispettare questa regola, diciamo, anche all'interno dei progetti urbani che fa. Sì. E che non è molto scontato né come concetto né come azione effettivamente, perché appunto si vorrebbe sempre che dopo che uno progetta, poi il progetto rimane così bellino, perfetto, come era all'inizio. Si no. può fare, però ci vuole un sacco di manutenzione, è complesso. Sì, e poi questa cosa qua dei cambiamenti mi fa anche venire in mente una, diciamo, delle varie definizioni o come si può intendere il paesaggio. Insieme appunto anche al fattore tempo, e quindi che il paesaggio è un po' inafferrabile, nel senso che ogni volta che tu pensi di averlo capito, lui è già cambiato, è già un passo dopo. Quindi anche riuscire a interpretare ed effettivamente capire come funzionano questi ecosistemi, come funzionano questi cambiamenti, è, diciamo, essenziale per fare dei lavori che effettivamente si connettono con quello che è il tuo paesaggio circostante e che poi proseguono, diciamo, nei loro cambiamenti anche con esso. Cioè è davvero difficile come lavoro. Sì, assolutamente. L'inafferrabilità del concetto di paesaggio è abbastanza un po' demoralizzante, però vabbè. Non ci pensiamo. Effettivamente è abbastanza una verità, quindi va accettata, insomma. No, in realtà è anche molto molto affascinante, credo, perché sì. Cioè, la natura è vita e quindi è per forza anche cambiamento. Esatto. Quindi se un progettista riesce a capire questo e riesce a accettare questa condizione all'interno del proprio progetto, sì, è un passo avanti, penso. Sì, ha proprio trovato la svolta, ecco. Sì, esatto. E quindi vi cito un po' di qualche progetto che lei ha fatto, e ne ha fatti tanti, ripeto. Tra l'altro c'è il sito del Balmori Associates, insomma una roba del genere, comunque lo trovate, e lì ci sono tutti, c'è le foto tra l'altro, che appunto spiegarli a voce ci si prova, però senza foto chiaramente è per forza una spiegazione incompleta, e quindi c'è tutto se volete andare a vedere. E, ha fatto nella sua vita diversi tetti verdi, ovvero preso un tetto di un edificio e ci ha messo sopra delle piante. Non era difficile a capire, però vabbè, non si sa mai, non lo so. E, ha oltretutto proprio studiato abbastanza a fondo le tecniche e le tecnologie anche per fare un tetto verde, ha anche scritto un libro apposta, quindi ci ha rimuginato abbastanza sopra. Si è fatta anche chiaramente aiutare da altri architetti e da altri ingegneri. E, un esempio è The Solair, penso si legga così, Solaire comunque, che è stato realizzato nel 2003 a New York. Ah sì, una cosa che non ho detto è che lei appunto si erano trasferiti negli Stati Uniti, in particolare poi a New York, lei e suo marito, e quindi lei ha lavorato tantissimo nella città di New York e tanti dei suoi progetti sono lì. E, quindi questo detto LED è appunto l'inverdimento di due tetti dello stesso edificio, però che sono messi su piani diversi. E quello più in alto è un prato intensivo, così è chiamato, diciamo, semplicemente è solo a prato, quindi non c'è nient'altro. E invece quello più in basso, il tetto più in basso, c'ha sì delle superfici a prato, ma c'ha anche diverse erbacee e oltretutto dei bambù, che quindi sono piante, ora non sono arboree, però comunque sono piante che vengono molto alte. Quindi per forza di cose hanno anche un apparato radicale più grande. E dico questo perché chiaramente mettere le piante su un tetto non è scontato, perché mettere tanto suolo su un tetto appunto crea tutta una serie di complicazioni, perché il suolo è pesante e perché chiaramente è umido e deve esserlo, sennò le piante non possono vivere. E quindi c'è tutto il problema dell'acqua, dell'infiltrazione d'acqua nell'edificio. Comunque è possibile, appunto, è stato studiato, è stato fatto ed è possibile. E, oltre quindi, in questa parte di tetto basso ci sono appunto varie piante, più anche delle sedute e del sdraio, appunto perché siamo a New York, quindi una metropoli super edificata, di spazi verdi, vabbè in realtà adesso ce n'è, però voleva metterne uno in più, e quindi in modo che gli abitanti del palazzo potessero usufruire di quello spazio verde. E ora non sto qui a citargli un granché, però lei fa tutto uno studio anche ovviamente sui benefici ambientali del verde in generale e nello specifico dei tetti verdi. Un altro tetto verde che progetta è invece il Silver Cup Studios, è il tetto del Silver Cup Studios a New York, realizzato nel 2005. Allora, se vi andate a vedere, io avrei messo la mano sul fuoco, sono dei progetti diversi, perché non ci sono niente l'uno con l'altro. Però tra l'altro è anche interessante questa cosa, perché vuol dire che comunque ci aveva vedute abbastanza ampie. Ma il motivo per cui sono così diversi è che questo secondo che vi sto citando adesso, Silver Cup Studios, era più che altro pensato per due motivi. Uno per effettivamente dare tanta, sì, direi tanta, comunque superficie verde su un tetto, e poi per delle ricerche, appunto per capire ancora più a fondo, ancora meglio, le tecnologie per i tetti verdi e per i benefici ambientali che questi apportano. Praticamente questo Silver Cup Studios è una serie di vasche quadrate all'interno delle quali in ognuna c'è una specie diversa di sedum, cioè vabbè, c'è tipo non so, un tot, era un tanto, non mi ricordo quante specie di sedum si ripetono, Bello. però ogni quadrato è monospecifico e sono tutti messi uno accanto all'altro, estremamente regolari proprio. E ogni tanto però intervallati da delle strisciate arancioni, quindi si trova anche un po' particolare. E visto dall'alto fa molto effetto, però cioè, per esempio a mio gusto è molto brutta, però appunto non aveva troppo l'obiettivo di essere bella probabilmente. E quindi appunto questi erano due esempi di progetti di tetti verdi, tra l'altro. Un altro invece che ha fatto sempre nel 2005, non c'entra assolutamente niente, e però mi è piaciuto tantissimo. A me, quello, vedendo appunto i suoi lavori, forse quello mi è piaciuto di più, anche perché, non so, cioè sono più fan di cose piccole, belline, fatte bene, piuttosto che di masterplan giganteschi che sembrano strafighi, ma poi magari uno se li va a analizzare nel dettaglio, magari c'hanno problematiche anche quelli. Allora, questo è un progetto un po' particolare, viene chiamato Smithson Floating Island. E perché Smithson? Perché Smithson era un progettista che appunto ha lavorato tanto e aveva nel cassetto di fare un progetto che era questa Floating Island, quindi realizzare un'isoletta galleggiante a qualche parte, però morì prima di poterlo fare. E quindi Balmori riprende questa idea e la risviluppa, oltretutto va anche, entra anche in contatto con la moglie di Smithson e gli va a chiedere informazioni in più proprio di com'è che lui aveva pensato questo progetto. E a quanto pare quello che la moglie risponde è che secondo il marito, secondo Smithson, questa floating island doveva essere situata a New York e in quanto tale essere un elogio a Central Park, quindi un po' una piccola copia in miniatura, poi vedremo, poi vi dico le dimensioni, quindi una piccola copia di Central Park però portata da un'altra parte, appunto nelle acque intorno a Manhattan. Quindi Balboni appunto si informa, studia un po' e poi realizza questo progetto che consiste in una isoletta, a tutti gli effetti un'isoletta, di 10 metri per 27 circa, che quindi chiamarla isola è un po' buffo, Azzardato. però esatto, e appunto dove fa mettere terra, rocce oltretutto, e anche appunto qualche elemento un po' estetico e poi tante piante e alberi, anche c'è cioè diversi alberi, proprio un piccolo boschettino che appunto viene messo nel lago di Manhattan e viene trainato da una barca. Quindi questo è stato più che cioè che un progetto, però è stato più che altro un'installazione perché è stata portata a spasso, diciamo, dal 17 al 25 settembre del 2005. E poi niente, adesso ci rimangono le foto più o meno. Bellissima A questa me, performance del sì, giardino a spasso. esatto, è proprio una performance. Bellissima. È molto poetica, secondo me, è veramente molto poetica. Forse a me personalmente sembra quasi più quello il fine piuttosto che, cioè non mi sembra ci abbia grandi concetti di ecosostenibilità, perché alla fine è soltanto un costo quello di fare un'isola da portare a spasso con una barca, no? Cioè non deve essere Certo. molto No. semplice, perché la terra pesa un sacco, affonda, quindi insomma non deve essere proprio semplice. però è estremamente poetico. Io, tra l'altro, prima di aver letto questa cosa, che secondo Smithson doveva essere un elogio a Central Park, vedendo solo le immagini, avevo immaginato invece ci fosse tutt'altro significato dietro, cioè che era un po' appunto il significato di liberei io, cioè quello di, appunto, ricordiamo che è proprio un'installazione, quindi come dicevi già, di una performance proprio. Quindi questa isoletta che viene messa in mezzo all'acqua risalta tantissimo perché è chiaramente in un posto dove non ci dovrebbe stare, diciamo, e oltretutto veniva appunto portata a spasso, quindi si muoveva, quindi attraeva un sacco l'attenzione dei passanti di Manhattan, di New York. E oltretutto dice c'è un sacco di persone, l'hanno visto, è il progetto più figo del mondo, vabbè. E quindi secondo me questo fatto che fosse così visibile e così particolare, secondo me faceva in modo che le persone la vedevano, rimanevano molto stupite e si mettevano proprio a osservarla. Oltretutto, ripeto, se andate a vedere le foto è davvero bellina, cioè è proprio un boschettino fatto bene, non so come dire. Sì, Quindi abbiamo visto qua qualche foto e effettivamente è molto ecco, bellina. vedi, Sì, sì, vedi. sì, sì, sì. E quindi mi immagino, se io fossi stata lì a vederla, probabilmente quello che mi sarebbe venuto in mente è: ah, guarda quanto è bella questa cosa. Però poi ci ragiono e dico: ma che cos'è? È un bosco, cioè non c'è niente di strano in un bosco, ci sono ovunque i boschi, no? E quindi magari ha provocato forse un po' di stupore, di fascino verso quello che semplicemente è la natura. Che penso che appunto se davvero ha provato questa cosa penso sia molto positivo perché è solo stupendosi e meravigliandosi di qualcosa che è bello che lo si riesce poi a mantenere probabilmente. Ok, dopo questo ritiro filosofico, tra l'altro non lo so, cioè io provo a spiegarmi, però a volte non sono molto bravo, quindi non so se riesco a spiegare le mie Sei idee, sempre però ci provo. bravissima. No, no, dai, diciamo qua noi abbiamo capito, Mi sa quindi di va speriamo bene. Sicuramente anche chi ci Ma ascolta avrà capito. ok, molto bene. E poi per non rubare poi oltretutto troppo tempo, che già ho parlato un sacco, un ultimo invece progetto che ha fatto Balmori è, io penso sia il suo più celebre. Abando Barra, no, Abando Ibarra, vabbè, insomma è complicato, Mastercam, ok. Comunque è situato in Bilbao, in Spagna, e è stato fatto nel 2012. Come dice il titolo, appunto è un masterplan questo, quindi è un progetto molto grosso e praticamente diciamo, lo stato di fatto del luogo era la città di Bilbao, che era stato un Scusi, po'. lei, che cos'è uno stato di fatto? Ah, ora ti Cos'è uno voglio stato di fatto? spiegarla. Domanda d'esame proprio. Sì, vabbè, no, non Sarebbe so se sia una cosa effettivamente chiara a tutti. come si presenta il luogo in partenza, quindi prima che ci venga fatto un qualsiasi, prima che ci venga fatto niente sopra, insomma. 30 lode. Oh, grande! E quindi appunto la città di Bilbao, centro città oltretutto, che era stata zona industriale, però poi aveva subito tutta una crisi economica industriale, per cui risultava essere una zona un po' degradata alla fine. Soprattutto la parte intorno al fiume principale che scorre in Bilbao, e quindi c'era tutta questa parte lungo fiume un po' degradata, anche perché comunque accanto a questa passa ancora un'autostrada, quindi una strada a scorrimento veloce, molto trafficata, molto cioè, utile oltretutto, perché un'autostrada non si può levare da un giorno all'altro, no? C'è è perché probabilmente viene usata. Quindi era un contesto un po' difficile da gestire e l'obiettivo del progetto di Balmori Oltretutto lei qui non ha lavorato da sola, si è fatta aiutare anche da altri studi di architetti. Comunque l'obiettivo del progetto era quello di ridare vita un po' a questo spazio, che è un spazio molto grande, e renderlo, non solo ridargli vita, ma renderlo estremamente più bello innanzitutto, più verde, quindi più sostenibile e più funzionale anche. Perché appunto quello che si va a creare è un grande parco, e essendo ben fatto viene anche molto utilizzata la popolazione, quindi poi di conseguenza è funzionale. Quindi lavora molto su riprendere e rivalorizzare soprattutto la parte di lungo fiume, mm-hmm. e collegarla oltretutto con il di là fiume attraverso questo ponte, tra l'altro molto particolare, che a livello di design intendo piuttosto particolare, con delle scale che si intrecciano, insomma è bello. E in più crea tanti spazi, tantissimi spazi verdi, tantissimi spazi di seduta, di sosta, e crea anche oltretutto una piazza che è diventata anche celebre all'interno del progetto, anche lì con dei percorsi particolari, tutto con uno stile abbastanza innovativo. E infatti appunto si è fatto nel 2012, forse non so, forse aveva maturato un po' uno stile appunto diverso nel corso degli anni, e quindi niente, questo è appunto il progetto probabilmente più famoso suo, e tra l'altro per me è incredibile che si trova davvero nel centro di Bilbao ed è un'area estremamente grande. Altra cosa è che, come dicevo, c'è l'autostrada che passa lì nel mezzo, quella è stata mantenuta e anzi è stata proprio inserita molto molto bene all'interno del progetto, e qui ritorno un po' a quello che dicevo all'inizio del fatto che un progetto deve se è bello siamo contenti, però deve essere funzionale, quindi deve permettere tutta una serie di funzioni e di servizi alla popolazione. Certo, sì. Primo fra tutti di solito sono gli spostamenti, quindi sia spostamenti in auto, insomma con i mezzi, sia quelli pedonali. Sì, infatti come hai detto te, non deve essere un progetto diciamo calato dall'alto, anche perché se non ha nessuna funzionalità, esatto, sì. Può essere bello quanto ti pare, però è comunque qualcosa che deve essere fatto anche per l'uomo, perché se un parco è fatto per l'uomo non è fatto per la natura. Abbiamo svelato, esatto, tantissimi sì, opere, sì, dettagli, sì. Tutta la vita della nostra, sì, paesaggista ultra famosa. Direi sì, che per riassumere un po', scusate, dico vai, l'ultima cosa, vai, poi metto la musica, giustamente. Vai. Che un po' appunto per riassumere tutto questo, appunto lei ha fatto tanti progetti, io ne ho parlato di pochissimi suoi, però appunto tanti progetti anche molto diversi, alcuni grandi, alcuni piccoli, ma nonostante fossero diversi, c'aveva sempre lei questo grande obiettivo di includere la natura dentro un ambiente invece antropizzato e rendere la città parte della natura, che è estremamente ambizioso, chiaramente. Ora uno può poi giudicare se c'è riuscita o meno, comunque intanto l'obiettivo era quello. E niente, sì, un sì po', sembra diciamo, quasi un ossimoro mettere la città nella natura. Solitamente si parla sì, sempre, esatto, del mentre la natura è in città, invece lei proprio stravolge le carte. E poi sì, cerca proprio di riproporre dei modelli di funzionamento. Ora è tutto molto teorico secondo me, però anche la teoria serve a volte. Appunto cerca di riproporre dei modelli di funzionamento più naturali, quindi ovvero che si ritrovano più che altro negli ecosistemi naturali, riproporli anche in città. Ripeto, secondo me è un po' teorico, però penso che intendesse una serie di concetti tipo quello del cambiamento continuo, tipo quello della relazione inevitabile fra tutti i vari elementi che compongono un luogo e appunto sì, una serie di cose. Comunque è stata sicuramente molto importante, innovativa e all'interno di questo ambito della progettazione. Certo, si può dire una delle più, diciamo, seguite e anche più davvero importanti. E, dai, se non abbiamo nient'altro da aggiungere sulla nostra fantastica paesaggista, direi che si può mettere un pezzo musicale. Un pezzo sì, musicale sta, di... facciamo un po' rilassare esatto, gli ascoltatori. Esatto, esatto, di un artista nascente. Nascente. Sì, anche bella, eh? Jamila, la dottrina delle piccole cose. Fiorentina. Che dovreste già esatto, conoscere. Quindi perché... nascente, ma per modo di dire, dai. Già presentato. Piccoli gesti, piccole note uniscono le nostre vesti, piccoli pensieri che ci tolgono i vestiti, mentre tu mi spogli, tu mi travesti. Non mi riconosci e mi dici che mi sbaglio, non sono solo mostri, non vedo per l'abbaglio. È tutta una follia che ti prende per le braccia, è tutta una pazzia quando vince la mia ansia. Tu mi porti via anche se siamo in una stanza, anche se sono sobria, andate a letto la speranza. Curi una malattia, pensavo fosse la mia stanza, e invece con te tutto cambia, la gente guarda e passa. E se un domani mi svegliassi ancora così, abbattuta dalla vita prima, so che di carezze ci sarebbero le tue. Questa vita fa meno paura se siamo in due. Di questa leggenda d'amore studio i tuoi angoli osservandoli ed amandoli. Non mi stupisco se ho l'ispirazione, tanto con te ormai è tutta una grande poesia. Potremmo essere il disegno astrale di una magia. Vieni con me in un posto nuovo, tra gli alberi c'è già chi parla di noi. Il vento racconta, la terra lo ascolta. Si narra che un giorno saremo eterne. Nel frattempo la pelle si trasforma in un albero. E dall'alto perle d'acqua sulle tue ciglia cadono. Ed io non so più che farci. Io sono qui ad aspettarti. E se un domani mi svegliassi ancora così, abbattuta dalla vita prima, so che di carezze ci sarebbero le tue. Questa vita fa meno paura se siamo in due. Siamo amore, psiche in fondo. Facciamo l'amore sulla spiaggia con uno psichedelico tramonto. E se un domani mi svegliassi ancora così, ubriaca dalla vita prima, so che di carezze ci sarebbero le tue. Questa vita fa meno paura se siamo in due. Grazie. ritorniamo ciao. Sul pezzo con un altro breve spoiler. Questa pausa caffè è stata troppo lunga. Ci siamo rilassate troppo. Senza che mi sta fulminando con lo sguardo, però dai, ci sta, scusa, dobbiamo essere coerenti, abbiamo sbagliato. Mi ero anche mutata per sbaglio, perché se noti... per tutta la cosa. Mi hanno dovuto tenere ferma. Esatto, esatto. In 5, poi, perché è grosso. No, scherzo. Allora, concludiamo con la nostra ultima paesaggista. Che ci presenta Zazì. Esatto. Che sarei io. Ce ne sarebbero tante altre, ma per motivi di tempo abbiamo deciso di fare soltanto queste 4. E vai, Zazì, tocca a te. Yeah. Ciao a tutti. Allora, no, la paesaggista che vi presenterò si chiama Katrin Gustafsson ed è nata nel 1951 ed è ancora viva. Lei è nata... L'unica superstite. Esatto. E lei, diciamo, è nata a Yakima, direi, che è una città nello stato di Washington, quindi è nata negli Stati Uniti. E come dice anche lei, diciamo, il fatto di essere nata in questa città l'ha influenzata profondamente anche nella sua modalità di concepire il paesaggio, perché questa cittadina era attraversata da un fiume che stava ai piedi di, come insomma anche le indica lei, vigorose, incise, calve montagne, e quindi diciamo c'era sempre una parte un po' più fluida e una parte invece molto più diciamo dura, come possono essere magari appunto delle montagne, comunque la parte minerale, e che poi si porterà avanti, si porterà dietro, scusate, si porterà dietro anche nelle sue idee di progetto e di come interpreta appunto il paesaggio, eccetera, eccetera. E lei, diciamo, ha molto... scusate, allora lei appunto nei luoghi in cui opera ricerca molto l'immaginazione, il fatto che un luogo possa evocare una certa percezione, una certa emozione, e questo appunto gli deriva anche da questo luogo dal quale era nata, che a lei già suscitava appunto molte sensazioni. Si può, anche lei diciamo una paesaggista molto comunque rinomata, che dopo aver fatto il Fashion Institute of Technology a New York si reca in Francia e lì anche insomma inizia la scuola di architetto paesaggista, e successivamente poi fonda lo studio Gustafsson Porter, che diventerà poi nel 2002 Gustafsson Porter più Baumann, con sede a Londra. E quindi con questo studio diciamo eseguirà vari progetti prevalentemente in Francia, e dei quali molti già realizzati, comunque premiati, perché diciamo che in architettura del paesaggio molti progetti può accadere che... scusate un secondo. Ah, dei problemi tecnici, però va bene. Torniamo subito. Abbiamo perso un attimino Zazì, sì. Che però tra poco rinizierà. Sì, scusatemi, eccola, è tornata. Scusate. Allora, vabbè, quindi dove eravamo rimasti? Ah sì, ai progetti, vabbè, niente, quindi li fa prevalentemente in Francia, e appunto ci capita spesso che magari alcuni progetti siano solamente, rimangano diciamo per un lungo tempo anche solo su carta e poi vengano realizzati successivamente. E poi, vabbè, viene aperto anche il Seattle Studio, cioè lo studio a Seattle della Gustafsson Gucci Nicole, e poi anche come diciamo paesaggista riceve vari premi, tra i quali uno degli ultimi è l'International Federation of Landscape Architects e successivamente quello anche di Sir Geoffrey Jellicoe Award, quindi diciamo che è una che ha vari riconoscimenti. Quello che diciamo io ho notato tra i vari suoi progetti è che comunque lei mantiene sempre un molto, diciamo, molto rigore, soprattutto per quanto riguarda anche una rigidità che si ritrova nel minerale, come già si era detto, e anche spesso progetta luoghi che hanno anche bisogno di una manutenzione abbastanza elevata, perché comunque anche la componente vegetale è sempre mantenuta in maniera abbastanza precisa, e fa questi prati verdi che comunque molto puliti, molto raffinati, però anche per tenerli così, insomma, vuol dire probabilmente che c'è anche una gestione accurata. E inoltre ha sempre anche un occhio per i dettagli, quindi molte cose li definisce fino alla minima curva, al minimo spessore, proprio per dare l'idea e la percezione, quella emozione che lei ritiene adeguata. Questo si può vedere anche ad esempio nel Diana Princess of Wales Memorial Foundation a Londra, dove si ha questo cerchio in pietra, minerale, dove scorre all'interno l'acqua, quindi dove si ha sempre questo sottofondo, questo rumore di scroscio d'acqua che perenne, che già di per sé quindi evoca una naturalità, esatto, sì, delle sensazioni. E all'interno sono appunto incise, scavate, diciamo, di questo, cioè ogni pietra, diciamo, ogni parte di questo anello è modellato un po' per richiamare anche i ciottoli di fiumi o quelli che sono anche i disegni che l'acqua crea quando noi osserviamo, non so, anche banalmente il mare, i disegni che lascia sulla sabbia o altro. Quindi c'ha tutti questi dettagli che secondo me ovviamente danno una chiave poetica, diciamo, diversa anche quando si va a guardare questi tipi di progetti. Oltretutto comunque anche lei, in quanto paesaggista, nel 2008 un manifesto che è scritto da lei, ma non solo, anche da Porter, Guthrie e Nicole, che viene fatta in occasione della Biennale di Architettura di Venezia. E tra i vari si legge diciamo un passaggio che dice: noi crediamo nei paesaggi ricchi di significato che collegano il corpo, la mente e l'anima a un ambiente fisico e culturale. Quindi anche qua comunque evoca queste componenti del corpo, la mente, ma anche l'anima, che devono essere chiamate appunto quando si parla anche di paesaggio. E altre, diciamo, altri, quando si parlava anche del fatto che non tutti i progetti sono stati realizzati, ad esempio lei individua come uno dei progetti più emozionanti che ha dovuto fare il Garden of Forgiveness, che doveva essere realizzato a Beirut, e che in sostanza diciamo voleva essere un simbolo dell'unificazione delle culture di cui si compone il Libano, che sono varie, sono molteplici, e quindi voleva creare vari giardini che si connettevano e con varie anche simbologie, richiamando anche molti significati legati anche a appunto le varie culture che sono presenti, ma anche a epoche diverse, ad esempio anche, non so, banalmente l'Hortus Conclusus o altri percorsi che evidenziavano l'antica maglia della strada romana, insomma vari simboli, anche il giardino arabo, eccetera, proprio per un'unione di varie culture, che comunque, diciamo, un'attenzione che è giusto avere, proprio anche per come si diceva prima, sul fatto di non fare progetti calati dall'alto, che quindi si impongono su quella che è su quello che è il luogo, invece è bene comprendere la vera natura del luogo e da lì trarre tutto quello che è necessario per poi portare avanti il progetto. Altri progetti, diciamo, della quale si può parlare sono ad esempio anche il Culture Park Westergasfabriek a Amsterdam, e anche questo viene realizzato su un'area ex industriale e cerca di riqualificare l'area, quindi diciamo torna a questo tema del fatto di recupero, di rivalorizzare un luogo, che è sempre molto molto importante, anche perché Già nelle nostre città spesso ci sono luoghi ormai abbandonati o comunque in disuso, quindi è bene invece di creare nuovi spazi andare a recuperare quello che si ha già e rimettere in piedi uno spazio nella maniera migliore possibile. Un altro grande parco è a Valencia, il Parque Central, che anche questo vuole unificare due parti della città che erano precedentemente divise dal sistema ferroviario e che invece verrà interrato. E appunto qua si ha anche, mi piace anche questa idea del fatto che una struttura, come anche, non so, comunque la ferrovia, che magari spesso è impattante, e in questo caso venga comunque messa da parte per invece creare un parco che quindi porta appunto il verde, la natura all'interno della città e la va proprio ad unire anche, e quindi è proprio una chiave di lettura diversa. E niente. Diciamo, questi sono alcuni dei vari progetti che lei ha fatto, che potete comunque, spero, andare a vedere. E direi che, visto l'ora che si è fatta, possiamo anche finire qua. Tanto anche io sono bella stanca, come potete siamo vedere. Siamo tutti belle miei... cotte, ma in realtà siamo belle congelate. Esatto. Forse sì, esatto, ci si congela il cervello. Esatto, quindi... prima ci salutiamo e poi mettiamo l'ultimo spezzone musicale, proprio un manifesto della femminilità, ma nelle sue accezioni più varie. Quindi salutiamo a distanza Addu. Ciao! Che non so se ci sentirà perché ho avuto dei problemi appunto con il telefono primo. Ecco, ok, allora niente. Quindi, Addu vi saluta sicuramente. E allora passiamo ai saluti in studio. Esatto. E ciao da Palù e grazie per averci ascoltato. Ciao da Iaia e buona serata. Ciao da Zazzi e grazie per averci ascoltato. Ecco, buon ascolto. L'ultimo pezzo di Amy Meli, I Am Woman. I can love you if you got it going on. If you got it. cade, cade, cade, cade. Cade, cade, cade, come now, cade, come now, cade, come now.